Ti è mai successo di sentirti al centro? Al centro di ogni cosa, al centro di questo universo. E mentre il mondo gira, lascialo girare, che tanto pensi di essere l'unico a poterlo fare. Sei così al centro che se vuoi lo puoi anche fermare, cambiarne il senso della direzione per tornare nei luoghi e il tempo in cui hai perso ali, sogni e cuore. A me è successo e ora so volare. Ti è mai successo di sentirti altrove? I piedi fermi a terra e l'anima leggera andare, andare via lontano e oltre dove immaginare. Non ha più limiti, è un nuovo mondo da inventare. Sei così altrove che non riesci neanche più a tornare, ma non ti importa perché è troppo bello da restare nei luoghi e il tempo in cui hai trovato ali, sogni e cuore. A me è successo e ora so viaggiare oltre questa stupida rabbia per niente, oltre l'odio che sputa la gente sulla vita che è meno importante di tutto l'orgoglio che non serve a niente, oltre i muri e i confini del mondo, verso un cielo più alto e profondo, delle cose che ognuno rincorre e non se ne accorge che non sono niente, che non sono niente. Ti è mai successo di guardare il mare, fissare un punto all'orizzonte e dire è questo il modo in cui vorrei scappare, andando avanti, sempre avanti, senza mai arrivare. In fondo è questo il senso del nostro vagare. Felicità è qualcosa da cercare senza mai trovare. Gettarsi in acqua e non temere di annegare. A me è successo e ora so volare. Stupida rabbia per niente, oltre l'odio che sputa la gente sulla vita che è meno importante di tutto l'orgoglio che non serve a niente, oltre i muri e i confini del mondo, verso un cielo più alto e profondo, delle cose che ognuno rincorre e non se ne accorge che non sono. Di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare, ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male, che amore è se non hai niente più da odiare, restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo amore e ora so restare.